Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Benvenuti alla nuova puntata di Restiamo Animali, la trasmissione animalista, antispecista e vegan che racconta l'attualità, la cultura, il mondo con un occhio di riguardo per gli altri animali. È la puntata numero 583 e parleremo di agnelli, di costituzioni, di animali marini, di archeologia canina. La colonna sonora della settimana sarà a cura di Gianluca Masala, la ricetta della settimana, come al solito, di Gabriele Palloni. Ci troviamo nei giorni di Pasqua e come tutti gli anni per noi questo è un periodo venato di tristezza, perché la festa di origine religiosa si traduce all'atto pratico in una grande mattanza di cuccioli di pecora per via di tradizioni alimentari crudeli, dure a morire. Il nostro pensiero va dunque a queste vittime innocenti della festa e la speranza rimane quella di un progressivo ravvedimento delle persone e delle autorità religiose, finora indifferenti alla scia di dolore e di sangue che accompagna le celebrazioni e i momenti di riposo e relax di questi giorni. In tutto questo, a dire il vero e per dovere di cronaca, c'è un barlume di luce, visto che continua a scendere la vendita di carne di agnello e non solo, ci dicono gli esperti, per via del lockdown. Il Consorzio per la tutela dell'agnello, IGP di Sardegna, per esempio, stima per quest'anno un calo del 35% nel consumo di carni d'agnello. E già nello scorso anno si era verificata una riduzione dei consumi rispetto al 2019. Massimo Camparotto, presidente di OIPA, l'Organizzazione Internazionale per la Protezione degli Animali, è ottimista di fronte a questi dati e sostiene che la maggiore consapevolezza di come vengono allevati, trasportati e uccisi i cuccioli ha determinato il crollo delle vendite registrato negli ultimi anni. Le numerose foto e video diffusi dalle associazioni hanno fatto la differenza, dice ancora Camparotto, e sempre più persone scelgono di non acquistare carne d'agnello. Noi invitiamo a riflettere, conclude il presidente di OIPA, anche su quel che accade a tutti gli altri animali d'allevamento, che soffrono allo stesso modo. Good times for a change. Ma intanto questo, per Pasqua, è un primo bel passo verso un'alimentazione etica. Turn back. So please, please, please, let me, let me, let me. Let me get what I want this time. Haven't had a dream in a long time. See, the life I've had can make a good man bad. So for once in my life, let me get what I want. Lord knows it would be the first time. Lord knows it would be the first time. Siamo ancora nel pieno della pandemia di Covid-19 e nei giorni scorsi la Commissione internazionale inviata in Cina dall'Organizzazione Mondiale della Sanità ha concluso i suoi studi sull'origine del virus, sostenendo che con ogni probabilità si è trattato dell'ennesimo caso di spillover, il salto di specie del virus dagli animali selvatici all'umanità. Molto improbabile è invece definita dagli esperti l'ipotesi di un incidente di laboratorio, ipotesi caldeggiata soprattutto in sede politica da alcuni paesi, in modo più o meno esplicito. È probabile che la diatriba in sede diplomatica non sia finita qui, ma intanto chiunque abbia letto almeno Spillover, il famoso libro di David Quammen, sa bene che le zoonosi sono molto frequenti negli ultimi anni e che la pandemia attuale non sarà l'ultima. Al di là delle conclusioni più o meno definitive raggiunte dagli esperti dell'OMS, è quindi importante concentrarsi sulle cause dello spillover e agire affinché i rischi si riducano, nel mentre che si lavora per migliorare la risposta dei sistemi sanitari. L'attenzione per questo tema nella fase attuale è molto bassa, per evidenti interessi economici e per la prevalenza di una classe politica ideologicamente e intellettualmente disarmata di fronte al disastro compiuto dall'attuale modello di sviluppo. Una proposta di intervento concreta, praticabile, nel contesto presente, arriva dal recente studio della LAV, Lega Antivivisezione, sui costi nascosti della filiera della carne. Costi in termini di inquinamento, di consumi di risorse e di suolo, di impatto sulla salute. Citiamo un passaggio di un intervento di Roberto Bennati e Paola Segurini della LAV a commento del rapporto. Il ciclo di vita, che per noi animalisti è un ciclo di morte, scrivono Bennati e Segurini, di un chilogrammo di carne di bovino genera un impatto sull'ambiente riassumibile in un costo per la società di 13,5 euro, mentre un chilo di maiale, a seconda della lavorazione, varia fra i 4,9 e i 5,1 euro. Il pollo si attesta sui 4,7 euro al chilo. In confronto, la produzione di un chilo di legumi costa alla società, in termini di impatti ambientali, circa 50 centesimi di euro. La differenza, come si vede, è enorme. E che fare allora di fronte a tale situazione? La proposta della LAV è una radicale revisione dei sussidi alla zootecnia, con l'avvio di una transizione verso un sistema alimentare più lieve e più sano. La LAV, sul piano concreto delle proposte da attuare subito, propone di ridurre l'IVA dal 22 al 4% su tutti i prodotti vegetali, di avviare piani locali di progressiva sostituzione della carne con proteine di origine vegetale, e l'introduzione di una tassa sulla produzione e sul consumo di carne, usando quindi la leva fiscale per avvicinare il prezzo della carne al suo costo reale sostenuto dalla collettività, per effetto dei citati costi sociali, ecologici e sanitari nascosti. Qualcosa, insomma, si può fare. Questo è lo spirito della proposta LAV, nonostante il silenzio che ancora circonda un tema che dovrebbe invece essere centrale: la ricerca delle cause ultime delle zoonosi. Common sense shouldn't receive. Let me take you down the corridors of my life. And when you walk to, you walk to your preference. No need to answer till I take further evidence. I seem to need a reference to get residence. A reference to your preference to say I'm a good neighbor. I trust, suggest you from my labor. The bottom ensures my good behavior. The constant struggle ensures my insanity. Passing the evenings ensures the struggle for my family. We're hungry, beware of our appetite. Distant drums ringing news of a kill tonight. The kill which I share with my passengers. We take our fill, take our fill, take our fill. I stand firm for our soil. Liquor I come for, for the juices. Confused by different memories, details of Asian. Remember this conversation. I've watched become of enemies. My brain thinks bomb-like, so I listen. He's a calm kind. As I grow, and as I grow collective. Before the move, sit on the perspective. Mr. Quail in the crevice and watches from the precipice. Imperial. some days slowly pass. Until then, you have to live with yourself. Until then, you have to live with yourself. Killers round the corner where I shelter. Living in schizos. We're living on a skelter. If you believe what they see, then common sense says you will see. La Repubblica tutela l'ambiente e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. Protegge la biodiversità e gli animali. Sono queste le parole che potrebbero modificare l'articolo 9 della nostra Costituzione, introducendo quindi nella Carta la tutela della vita animale, finora esclusa, non nominata. La discussione sulla proposta è appena cominciata nella Commissione Affari Costituzionali del Senato. Il testo base appena citato, e che andrà poi discusso, è stato adottato su proposta della relatrice Maiorino dei 5 Stelle, con il voto favorevole di Partito Democratico, LeU e Gruppo delle Autonomie, il voto contrario della Lega e l'astensione di Forza Italia. Gianluca Felicetti, presidente della LAV, ha commentato con favore la notizia, ricordando l'impegno di lunga lena della sua associazione attorno a questo progetto. Ben 22 anni dopo, ha detto Felicetti, la prima presentazione di un disegno di legge targato LAV e a 16 dal precedente tentativo che non arrivò a ottenere un risultato per la fine della legislatura. Il testo, dice Felicetti, è ancora migliorabile, ma il passo compiuto in Senato è il primo fondamentale passaggio che arriva dopo un anno e mezzo di importanti audizioni e confronti. Faremo di tutto affinché l'Italia si allinei agli altri paesi che hanno già realizzato questa importante riforma, dalla Germania all'India. Felicetti ha anche ricordato l'importante convegno organizzato al Senato nel 2013 dalla LAV con la partecipazione, fra gli altri, dei professori Stefano Rodotà e Luigi Lombardi Vallauri, un convegno che intendeva supportare la proposta di modifica alla Costituzione. Abbiamo chiesto proprio al professore Lombardi Vallauri un commento sull'ipotesi di modifica. Premetto che venero, per non dire adoro, la Costituzione. Penso che si possa dare la vita per difenderla. Al tempo stesso mi rendo conto che è 73enne. Certo, va anzitutto ripristinata, difesa nelle parti essenziali ridotte al silenzio, tradite, ma va anche inverata interpretativamente, resa di nuovo pienamente se stessa nelle parti invecchiate, datate. E infine va integrata creativamente là dove sono nati i problemi ai quali i gloriosi autori di allora non potevano pensare. Tra questi l'ecologia. L'ambiente natura non è solo il paesaggio dell'articolo 9 e il rapporto, oltre che ecologico, anche etico, di giustizia e compassione razionale tra il dominatore umano e gli altri animali. Aggiungo che la nostra Costituzione fa oggi parte integrante di un'architettura costituzionale non solo italiana, ma europea e transeuropea. Per quanto riguarda gli animali, l'articolo 13 del Trattato di Lisbona, norma di rango paracostituzionale, prescrive che in tutti i settori delle loro politiche, cito, l'Unione e gli Stati membri tengano pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti. Da notare pienamente, benessere, esseri senzienti. Questa norma è diritto italiano vigente, quindi impone ai politici e ai giuristi italiani un'interpretazione costituzionalmente orientata di tutte le leggi ordinarie. Anche in mancanza di una norma costituzionale italiana, va considerata principio fondamentale in materia di rapporti giuridici uomo-animali. Serve allora un apposito articolo animalista nella Costituzione italiana? Io direi, senz'altro serve. Come testimonianza anche in prima persona della comunità nazionale. È da 20 anni che parlamentari, docenti universitari, associazioni formulano proposte di inserimento della tutela degli animali non umani nell'articolo 9. È un intervento difficile. Da un lato non si può scendere al di sotto dell'articolo 13 di Lisbona, anzi si deve potenziarlo, tenendo conto dell'evoluzione positiva del diritto animale in questi ultimi 12 anni. Dall'altro c'è il rischio che un contrasto radicale con le leggi ordinarie tuttora vigenti in materia di caccia, pesca, allevamenti, macellazioni, sperimentazione e vivisezione renda la norma costituzionale ineffettiva. Anche il termine generico animali trascura il fatto che un mammifero, un uccello, un pesce, una cavia hanno sistemi nervosi centrali e comportamenti che dimostrano una soggettività, una senzienza diversa da quella di un verme o di un'oturia. Auguro ai costituenti di saper orientare la coscienza dei cittadini nella giusta direzione, che del resto è indicata dalla notevole evoluzione in senso animalista del diritto e della stessa coscienza sociale negli ultimi decenni. Brutte notizie ci arrivano da mari e oceani. Circa il 25% delle specie di mammiferi marini corre il rischio imminente di estinzione. E la conclusione di uno studio pubblicato sulla rivista Endangered Species Research, condotto dagli scienziati dell'Università di Exeter, che hanno valutato lo stato di conservazione di 126 mammiferi marini, fra cui delfini, foche, leoni marini, dugonghi, lamantini, lontre marine, orsi polari e balene. Fra gli animali maggiormente in pericolo risalta l'Eubalena glacialis, nota anche come balena franca nordatlantica. Il cambiamento climatico, spiegano gli autori della ricerca, rappresenta una delle principali minacce per gli animali marini, i cui habitat subiscono diminuzioni e alterazioni. Ne è un esempio l'Artico, dove la perdita di ghiaccio minaccia la sopravvivenza di molte specie, inclusi gli orsi polari. Il cane, secondo un popolare adagio, è il migliore amico dell'uomo. Di sicuro è un animale di antichissima domesticazione, risalente a qualche migliaio di anni fa. Una notizia archeologica offre nuovi elementi di conoscenza. Nel nord-ovest dell'Arabia Saudita, un gruppo di archeologi ha scoperto le prime prove dell'addomesticamento dei cani da parte degli antichi abitanti della regione. I ricercatori hanno trovato le ossa di un cane in una delle più antiche tombe monumentali mai identificate nella zona. Le tracce mostrano che il primo utilizzo della tomba risale al 4300 a.C. e che ha accolto sepolture per almeno 600 anni. Ciò che stiamo scoprendo rivoluzionerà il modo in cui intendiamo periodi come il Neolitico in Medio Oriente, ha detto Melissa Kennedy, portavoce dei ricercatori. Questa, dice Kennedy, è la più antica testimonianza di un cane addomesticato in Arabia, con un margine di circa 1000 anni rispetto a quanto precedentemente scoperto. Il gruppo di ricerca ha identificato 26 frammenti di ossa di un singolo cane, frammenti deposti a fianco alle ossa di 11 umani, 6 adulti, un adolescente e 4 bambini. Le ossa del cane mostrano segni di artrite e questo particolare suggerisce che l'animale sia vissuto con gli umani fino a tarda età. Le ossa del cane sono state datate fra il 4200 e il 4000 a.C. e l'arte rupestre rinvenuta nella regione indica che gli abitanti del Neolitico usavano i cani per cacciare libice, l'asino selvatico e altri animali. Desire's hunger is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed. Gabriele Pannoloni, come ogni settimana, ci propone una ricetta collegata alle notizie della settimana. Stavolta non poteva esimersi dal offrirci una ricetta pasquale. Ricordiamo che Gabriele Pannoloni è autore del libro Se vuoi essere sano, cucina vegano, edito da Newton Compton. Il pasto gentile è un frigorifero senza crudeltà. Thank you. Giusto in tempo per darvi un suggerimento per portare in tavola una prelibatezza senza crudeltà nei giorni di Pasqua. Oggi vi racconto la ricetta delle cotolette di tempe ai porri e couscous. Gli ingredienti per 4 persone sono 400 g di tempe, 100 ml di succo di arancia, 60 g di farina tipo 0, 20 g di farina di ceci, 250 g di couscous, mezzo litro di latte di avena o altro latte vegetale al naturale, 300 g di porri, un ciuffetto di prezzemolo, un pizzico di curcuma, un pizzico di noce moscata, olio extravergine di oliva, sale e pepe e 8 stecchi di legno per gelato. Tagliate il tempè a fette spesse mezzo centimetro, dovreste ricavare circa 8 pezzi rettangolari e lasciate in infusione nel succo d'arancio. Nel frattempo unite la farina con 50 ml di olio extravergine di oliva, una presa di sale e un pizzico di noce moscata. Fate tostare un minuto facendo attenzione a non far bruciare e versate il latte di avena caldo. Conservatene 50 ml da parte, mescolando con una frusta. Fate cuocere a fuoco lento, mescolando fino ad ottenere una besciamella piuttosto densa. Stemperate la farina di ceci alla curcuma con i 50 ml di latte di avena e uniteli alla besciamella. Fate cuocere ancora un minuto e togliete dal fuoco. A parte, lavate i porri e tritateli grossolanamente. Fateli scottare in una padella con poca acqua o brodo vegetale e quando questo si sarà ritirata, fate soffriggere per 10 minuti con un cucchiaio di olio extravergine. Quando i porri saranno cotti, aggiungete il prezzemolo tritato finemente e aggiustate di sale e pepe. Unite i porri alla besciamella, scolate il tempè e cospargete le fette con la besciamella. Dovranno esserne coperte. Adagiate su un foglio di carta forno spennellato di olio e lasciate riposare per un'ora. Quando la salsa attorno al tempè sarà ben compatta, passate delicatamente nel couscous facendo una leggera pressione per avere una panatura uniforme. Friggete in padella con olio extravergine facendo dorare su entrambi i lati. Scolate, infilzate ogni cotoletta con uno stecco di legno e servite calde con un pizzico di sale in superficie. Chiudiamo invitandovi a cercare in rete, sul sito del quotidiano La Stampa, la fotografia scattata nella città messicana di Coahuila de Zaragoza, dove un parroco, padre Gerardo Zatarain Garcia, ha detto messa tenendo la sua cagnolina Paloma sulle ginocchia. «Scusate», ha detto ai parrocchiani, «ma il mio cucciolo è molto malato e se lo lascio solo a casa si rattrista e perciò l'ho portato a messa». Una bella immagine a proposito di rapporto fra umani e cani e anche della relazione, ben più problematica, fra fede religiosa e animali. Per questa settimana è tutto. Vi saluta l'intera redazione di Restiamo Animali, composta da Camilla Lattanzi, Francesca De Matteis, Francesco Pagnè, Roberta Marino, Zenone Sovilla, Gabriele Palloni, Gianluca Masala, Anna Granata e chi vi parla, Lorenzo Guadagnucci. L'appuntamento è fra 7 giorni, stessa ora, stesse onde. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.